Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Aveva precedenti penali ed era stato espulso nel 2013. Il ladro ucciso ieri a Vaprio d'Adda non è stato ucciso in casa, ma sulla scala esterna. Le indiscrezioni del quotidiano nazionale. Il Papa ha un tumore, ma la Santa Sede smentisce notizie infondate e irresponsabili. 14 arresti per truffa nell'inchiesta sull'ospedale israelitico di Roma. Ai domiciliari l'ex presidente dell'INPS Mastrapasqua. I benefici fiscali concessi da Lussemburgo e Olanda a Fiat e Starbucks sono aiuti di Stato. Le aziende dovranno restituire tra i 20 e i 30 milioni di euro. Il premier israeliano Netanyahu: Hitler non voleva lo sterminio degli ebrei, lo convinse il mufti di Gerusalemme. Il centro Wiesenthal replica: affermazioni senza basi. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura anche oggi la cronaca con l'episodio di ieri a Vaprio d'Adda, dove un uomo ha sorpreso un ladro in casa, o meglio fuori casa da quel che si è appreso oggi, e gli ha sparato uccidendolo. Le novità sulla ricostruzione sembrano indicare appunto che il colpo sia partito quando il ladro era sulle scale. Il servizio. Avrebbe sentito dei rumori in giardino, impugnato la pistola, aperto la porta ed esploso un colpo contro un uomo che gli stava davanti. È questa l'ipotesi alla base dell'accusa di omicidio volontario a carico del pensionato di 65 anni di Vaprio d'Adda, zona nord-est di Milano, che ha sparato e ucciso un 22enne albanese. Il giovane, con precedenti penali ed espulso dall'Italia nel 2013, avrebbe scavalcato la recinzione della villetta e sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola al petto mentre si trovava sulle scale esterne dell'abitazione. Il pensionato, che aveva già subito 4 furti negli ultimi 3 mesi e per questo pare si fosse comprato la pistola, non avrebbe quindi sparato all'interno della casa nel buio come si era ipotizzato, ma fuori, sorprendendolo prima ancora che l'uomo entrasse. Schierati dalla sua parte i cittadini di Vaprio, che ieri sono scesi in strada per una fiaccolata. L'accusa di omicidio volontario deve ancora essere confermata. Intanto è in corso alla Procura di Milano l'interrogatorio al 65enne. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E qualche dettaglio in più su tutta questa vicenda ve lo daremo più avanti. Parleremo con un collega, un giornalista del Corriere della Sera, che si sta occupando di questi fatti per capire un po' come si stanno effettivamente muovendo gli inquirenti e quali sono i dettagli ulteriori. Così intanto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, intervenuto oggi a 24 Mattino, Attenti a Noi Due, intervistato da Alessandro Milano e Oscar Giannino. Io penso che questa imputazione di omicidio volontario sia incredibilmente sbagliata e penso che sia dovuta alla necessità di compiere certe indagini, ma poi se ci sarà il processo, spero di no, nei confronti di questa persona, al massimo sarà omicidio colposo, eccesso colposo di legittima difesa. In allora quel caso, noi in quel caso affronteremo la difesa legale, certo sostenendo le spese. Io credo che sia un'aberrazione l'omicidio volontario, veramente è una cosa che io sto dalla parte di Abele, non dalla parte di Caino, e c'è qualcuno invece che protegge chi fa violenza, protegge i criminali più che non le vittime, e questo è il problema. Però non è un problema di leggi. Le leggi, il codice penale qui è chiaro, è un problema di interpretazione. E chi fa l'interpretazione? Ovviamente il magistrato, che parte con le indagini. E come si diceva, su questo torneremo più avanti. Veniamo alle condizioni fisiche del Papa. Secondo notizie pubblicate oggi dal quotidiano nazionale, Francesco avrebbe un tumore al cervello e sono fioccate le smentite. Tra l'incredulità e la difficoltà a trovare le parole per un commento da parte dei fedeli, Papa Francesco è arrivato stamani in Piazza San Pietro per il consueto giro prima dell'udienza generale del mercoledì e qui, sempre sorridente, ha salutato la folla che lo aspettava dispensando benedizioni. Papa Francesco ha poi ricordato che domani ricorre la memoria liturgica di San Giovanni Paolo II e, rivolgendosi agli ammalati, ha detto: portate con gioia la croce della sofferenza come lui ci ha insegnato. Un accenno più che mai suggestivo in una giornata come quella di oggi, in cui non si parla d'altro che delle sue sue condizioni di salute. Secondo il quotidiano nazionale, infatti, il Papa avrebbe un piccolo tumore al cervello, curabile, tale da non richiedere un intervento chirurgico. E per questo sarebbe stato seguito da Takanori Fukushima, un luminare giapponese in tema di tumori al cervello e aneurismi, che lavora presso la clinica San Rossore di Pisa. Ma la portavoce della clinica, Elena D'Angelo, ci ha risposto così. Il nostro amministratore delegato, l'avvocato Andrea Madonna, stamani ha smentito la notizia. In un tweet rilanciato anche dall'Osservatore Romano, il sostituto alla segreteria di Stato, Monsignor Angelo Beccio, ha scritto: «Ho incontrato il Papa ieri sera, sta benissimo ed è in grande forma, ma già nella notte, poi ancora in mattinata, era arrivata la secca smentita di padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede, che ha detto: si tratta di notizie totalmente infondate e gravemente irresponsabili». Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra l'altro dovrebbe iniziare a minuti la conferenza stampa di padre Lombardi, una conferenza stampa quotidiana in queste giornate nelle quali si svolge il sinodo sulla famiglia. Alle 13.35 ci collegheremo col vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni, per avere proprio aggiornamenti su tutto questo. Siamo agli arresti nell'inchiesta sull'ospedale israelitico di Roma, ai domiciliari anche l'ex presidente dell'INPS. L'ospedale israelitico di Roma torna al centro delle cronache giudiziarie. Con l'accusa di falso e truffa ai danni della sanità pubblica, la Procura di Roma oggi ha disposto gli arresti domiciliari per 14 fra dirigenti e medici. In pratica sono stati decapitati i vertici della casa di cura privata. Ai domiciliari è finito anche l'ex direttore generale ed ex presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, che già nel 2014 era stato iscritto nel registro degli indagati. L'ospedale israelitico è da tempo nel mirino della procura. La struttura è accusata di aver falsificato per anni cartelle cliniche e documenti sulle cure effettuate in convenzione per ottenere rimborsi più alti dal sistema sanitario nazionale. I pubblici ministeri titolari dell'inchiesta, Fasanelli e Palaia, hanno anche disposto un sequestro preventivo del valore di 7 milioni e mezzo di euro, la cifra che secondo gli inquirenti sarebbe stata ottenuta in modo indebito dallo Stato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lo sentivate nei titoli, aiuti di Stato incompatibili con le norme europee. La Commissione di Bruxelles impone a Fiat e Starbucks di restituire tra i 20 e i 30 milioni di euro. Hanno siglato accordi fiscali ad hoc ricevendo trattamenti di favore classificabili come aiuti di Stato illegali. Per questo Fiat Chrysler e Starbucks dovranno restituire le tasse arretrate rispettivamente a Lussemburgo e Olanda pari ad almeno 20-30 milioni di euro, annuncia la Commissione europea dopo 15 mesi di indagini. Di per sé i tax ruling, ovvero le intese fiscali tra stati e multinazionali, sono legali, spiegano da Bruxelles. Ma Fiat e Starbucks hanno utilizzato metodi artificiosi per determinare gli utili imponibili non corrispondenti alle condizioni di mercato. Nel dettaglio, l'azienda americana ha trasferito parte degli utili all'estero, in paesi dove non sono tassati, mentre la società di finanziamento di FCA ha sottostimato gli utili da assoggettare a imposta. Per questo dovranno restituire i soldi agli stessi stati. Un paradosso, spiega Marco Zanni, membro della Commissione Speciale Tax Ruling al Parlamento Europeo. Queste aziende saranno costrette a restituire questi soldi che sono probabilmente stati sottratti ad altri stati membri, spostando i profitti da dove effettivamente c'è l'attività economica a Lussemburgo e all'Olanda, restituiranno i soldi a Lussemburgo e Olanda, cioè agli stessi stati membri che li hanno aiutati a eludere il fisco. E mentre il Granducato ribadisce di non aver mai concesso aiuti a Fiat, la Commissione europea avverte: abbiamo altre indagini in corso, siamo pronti ad aprire altre inchieste. Nel mirino ci sono Apple in Irlanda, Amazon e McDonald's in Lussemburgo. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Non è l'unica notizia che riguarda Fiat quella di oggi, perché oggi andrà alla quotazione Ferrari a Wall Street. Il prezzo è stato stabilito ieri, $52 per azione. Questa mattina i titoli in borsa di Fiat sono partiti molto male, con Fiat Chrysler in calo di circa 3 punti percentuali, adesso cede lo 0,14%, mentre Exor, la controllante, cede mezzo punto percentuale. Torneremo sui mercati come sempre alle 13:30. Ci sono altre notizie però che riguardano il settore automobilistico ed è un maxi richiamo per Toyota. A pochi giorni dal Tokyo Motor Show, che celebrerà le ultime innovazioni tecnologiche, il colosso dell'auto giapponese va incontro a un nuovo danno alla sua reputazione. Toyota ha annunciato il richiamo in officina di 6 milioni e mezzo di autovetture su scala globale. Il difetto da aggiustare riguarda alzacristalli a rischio di cortocircuito e quindi potenzialmente in grado di provocare incendi. Circa 1,2 milioni di vetture oggetto del richiamo sono in Europa. La società ha comunque fatto sapere che si tratta di un richiamo precauzionale. In mancanza di incidenti, questi casi non dovrebbero dunque avere significative conseguenze patrimoniali, ma certo intaccano l'atmosfera ottimista che ha appena portato il gruppo giapponese ad annunciare ambiziosi piani tecno-ecologici, dall'auto che si guida da sola nel 2020 all'obiettivo al 2050 di avere quasi tutta la produzione orientata verso modelli diversi da quelli tradizionali basati su motori inquinanti. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Tokyo. E siamo alle cronache. Dalla legge di stabilità e di ieri la precisazione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, per la quale, secondo il quale non ci sarà esenzione IMU e TASI per ville e castelli, ed è di questa mattina invece una dichiarazione del Vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, che dice: alcune azioni prese a livello di politica fiscale dall'Italia non sono in linea con le raccomandazioni generali europee. Per un punto di oggi ci colleghiamo con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno. Nessun regalo ai ricchi è in sostanza il messaggio che il Premier Renzi manda soprattutto alla minoranza del PD, che aveva fortemente contestato il taglio di IMU e TASI sulle prime case. Il Presidente del Consiglio chiarisce quindi, a poche ore dall'arrivo del testo della legge di stabilità in Parlamento, che case di lusso, ville e castelli continueranno a pagare l'IMU. Quanto al taglio della TASI, segnalano dal Tesoro, non riguarderà nemmeno tutti gli inquilini, visto che chi vive in una casa in affitto, quindi non abitazione principale, continuerà a pagare la sua quota insieme al proprietario. Inoltre vi sarebbe la proroga della cosiddetta addizionale TASI, ovvero la facoltà per i comuni di portare l'aliquota fino allo 0,8% in più. Altro capitolo, l'innalzamento del limite del contante, misura liberale la definisce Renzi, che non aiuta né combatte l'evasione ma che aiuterà i consumi, quindi il canone RAI in bolletta. Pagare tutti, pagare meno è un grande principio di onestà e di etica, scrive Renzi, che aggiunge: se tutti fanno come Salvini va a finire che gli onesti pagano di più. Più in generale rivendicano da Palazzo Chigi il cuore della manovra resta il taglio delle tasse, che non è negoziabile, come ha chiarito il ministro dell'economia Padoan, che apre comunque a miglioramenti nel passaggio in Parlamento. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e vedremo come procederà questo lavoro sulla legge di stabilità, che sarà piuttosto lungo. La questione dei migranti: il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha convocato un incontro dei leader a Bruxelles di fronte alla crisi, per fronteggiare la crisi dei profughi lungo la rotta balcanica, per domenica 25 ottobre. Intanto migliora la distribuzione sul territorio italiano dei migranti secondo il principio di equità fra le regioni stabilito nel 2014. Lo dice un rapporto presentato oggi dal Ministero dell'Interno. Valentina Furlanetto ha sentito il sottosegretario Domenico Manzione. Finalmente qualche risultato rispetto al piano approvato nel luglio del 2014 si incomincia a vedere, nel senso che la ridistribuzione e quindi l'alleggerimento del peso su certe regioni più gravate rispetto a altre regioni meno gravate ora incomincia a essere percepibile. Questa mattina da Ciampino è partito un aereo con dei migranti, ma da fonti europee ieri si diceva che questi ricollocamenti sono a rischio. Questi saranno gli ultimi a partire dall'Italia? Ma guardi, ovviamente l'auspicio è che non sia così, nel senso che l'Europa ha già preso un impegno, c'è da fare affidamento sull'impegno che l'Europa ha preso e sta prendendo con riferimento alla seconda tranche. Stamattina ne sono partiti altri 68. Juncker ha appena convocato un vertice per l'emergenza sulla rotta balcanica. La risposta europea è, come al solito, abbastanza tarda, diciamo così, perché alla fine abbiamo chiuso in una specie di recinto una gran massa di persone che si aggira tra reti, fili spinati e ipotetici muri nel cuore dell'Europa, senza tener conto appunto che sono tutte persone che scappano da scenari di guerra. Torniamo brevemente alle vicende più strettamente italiane, a partire dalla decisione del GUP di Cagliari, Lucia Perra, che ha rinviato a giudizio la sottosegretaria ai beni culturali Francesca Barracciu. È accusata di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto illecito dei fondi dei gruppi del Consiglio regionale della Sardegna. Il processo comincerà il 2 febbraio del 2016. Barracciu è accusata di essersi fatta impropriamente rimborsare 81.000 euro quando era appunto consigliera regionale. Il punto all'indomani della sentenza della Corte Costituzionale sulla legge Severino, si attende tra l'altro l'esito del processo a Luigi De Magistris sulla vicenda Why Not, processo d'appello, nel caso ci fosse una soluzione o prescrizione il problema non si porrebbe più, rimane in piedi la vicenda che riguarda il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, la Consulta, ricordiamo, ha rigettato la questione di legittimità presentata dal TAR sulla legge Severino e adesso il sindaco di Napoli, fino alla sentenza, Luigi De Magistris è in bilico. I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto infondato il ricorso, in particolare sulle norme relative alla sospensione degli amministratori locali condannati anche in via non definitiva per determinati reati. Il TAR della Campania aveva sollevato il procedimento in cui il sindaco De Magistris, condannato in primo grado nel processo Why Not per abuso d'ufficio, aveva chiesto l'annullamento della sospensione dall'incarico disposta dal prefetto. De Magistris preferisce non parlare perché appunto è in corso a Roma l'udienza d'appello di Why Not, ma la decisione della Consulta mette a rischio anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che però si dice tranquillo e twitta keep calm e al lavoro senza distrazioni. Dall'opposizione però sia Forza Italia sia il Movimento 5 Stelle attaccano. Il caos in Campania è colpa del PD che ha candidato De Luca, condannato anche lui in primo grado per abuso d'ufficio. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e noi andiamo a chiudere questa prima parte di Effetto Giorno parlando di sport e con l'ormai consueto appuntamento col nostro Carlo Genta, a partire dalla partita delirante di ieri sera della Roma. Che rabbia, io credo, per tutti i tifosi della Roma ovviamente, ma anche per tutti i tifosi italiani, perché una partita così forse non, per fortuna non la rivedremo più, o magari la vedremo a parti invertite. A Roma che va sotto 2-0, che riesce a rimontare con De Rossi, 3 gol nelle ultime 2 partite, a festeggiare le 500 presenze giallorosse. Poi passa in vantaggio con Pjanic, che in questo momento praticamente segna ad ogni partita, la punizione nel 7 la mette ad ogni partita. Oggi ho letto anche dei paragoni illustri con Gianni Rivera, che possono anche starci. Poi Iago Falche a quel punto sembra fatta, vittoria in Germania, qualificazione che si avvicina, invece no, perché la Roma si fa rimontare, complice errori difensivi da coprirsi gli occhi, dal Bayer Leverkusen nel giro di pochissimi istanti tra il 39esimo e il 41esimo del secondo tempo. Adesso 4-4, la situazione è molto più difficile. Il Barcellona ovviamente ha vinto con il Bate Borisov, il Bayer Leverkusen va a 4 punti, il Bate che ha distrutto la Roma nel turno precedente ne ha 3, la Roma 2 soltanto. Adesso la Roma deve assolutamente battere il Bayer Leverkusen nella prossima partita all'Olimpico, poi dovrà giocarsela con il Bate Borisov e ovviamente con il Barcellona. Non dimentichiamo però che nell'ultimo turno il Barcellona andrà a giocare a Leverkusen con la qualificazione già in tasca, quindi bene che vada bisognerà sperare negli altri. E poi la Juve? Juventus stasera, ma lì la situazione è molto diversa, con il Borussia Mönchengladbach, nome molto difficile, ma squadra storica del calcio tedesco. Però la Juventus è una squadra che almeno fino a questo punto in Coppa e soprattutto da quando ha ritrovato Khedira offre ampie garanzie. Sarebbe importante per la Juventus una vittoria, perché manterrebbe il punteggio pieno e la qualificazione sarebbe davvero vicinissima. Allora, grazie a Carlo Genta, che ritroviamo come sempre dopo il GR delle 14 ed Europa 24 con tutti i convocati per affrontare anche questi temi. Ci prendiamo una pausa, c'è il traffico, ci ritroviamo tra un attimo, rifaremo il punto sulla vicenda di Vaprio Dadda e sull'omicidio da parte di un uomo di 65 anni, di un ladro che non si è capito ancora bene se fosse dentro l'appartamento o fuori sulla scala. Dichiarazioni degli ultimi minuti che emergono da le dichiarazioni fatte in procura dall'uomo dicono che in realtà era dentro l'appartamento e poi si sarebbe trascinato fuori sulla scala, e poi parleremo di queste dichiarazioni di Netanyahu che stanno facendo molto discutere, e non solo in Israele. A tra poco. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo. Fluentis.com. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Aveva precedenti penali ed era stato espulso nel 2013. Il ladro ucciso ieri a Vaprio Dadda non sarebbe stato ucciso in casa ma sulla scala esterna. L'indiscrezione del quotidiano nazionale: il Papa ha un tumore ma la Santa Sede smentisce. I 14 arresti per truffa nell'inchiesta sull'ospedale israelitico di Roma, i domiciliari l'ex presidente dell'INPS Mastrapasqua. Il premier israeliano Netanyahu dice: Hitler non voleva lo sterminio degli ebrei, lo convinse il mufti di Gerusalemme, vuole cambiare la storia del popolo ebraico, dice Abu Mazen. Ed eccoci di nuovo, seconda parte di Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Gianni Santucci, collega del Corriere della Sera, giornalista. Gianni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Che ha seguito e segue la vicenda di Vaprio Dadda, lo ricordiamo, dove un uomo di 65 anni ha sparato con una pistola regolarmente detenuta e ucciso un ladro. Dove questo sia avvenuto, ci sembra di capire, Gianni, è il primo mistero, per così dire, perché l'uomo continua a sostenere di aver sparato mentre l'uomo era già entrato in casa. In realtà gli accertamenti sembrerebbero dimostrare che il colpo è partito mentre questo 22enne, tra l'altro, come dicevamo, con precedenti penali, espulso nel 2013 e ancora in Italia, e anche qua si potrebbe aprire un capitolo, sarebbe stato in realtà sulla scala, no? Certo, qui ci troviamo di fronte a, come dire, uno scenario A, che è quello descritto dall'uomo che ha sparato, secondo cui lui apre la porta al buio all'interno del suo appartamento, vede una luce, una torcia che gli viene puntata addosso, a quel punto esplode un colpo e i complici di questo ladro avrebbero poi aiutato il ragazzo a cercare una fuga, quindi l'avrebbero trascinato fuori, portato a spalle fuori, dove poi il cadavere sarebbe rimasto, perché poi era in condizioni ovviamente praticamente già morto. In realtà gli accertamenti della scientifica dei carabinieri non combaciano con questa ricostruzione e la differenza tra i due scenari è capitale, perché un conto è una situazione di shock con un ladro in casa, un conto è sparare a un ladro che è all'esterno della casa. Certamente. Ci sembra di capire anche, Gianni, che questa accusa, questa indagine sull'omicidio volontario, se in realtà quasi un atto che consente accertamenti di tipo diverso, abbiamo capito male? Diciamo che la procura in questo caso ha fatto una scelta di cautela, perché si indaga sul reato più grave per chiarire esattamente al dettaglio tutti gli elementi di questa ricostruzione. E poi ci sarà sicuramente il tempo di riqualificare il reato. Certo è che se gli accertamenti e i sopralluoghi avessero confermato alla lettera la ricostruzione fornita dall'uomo che ha sparato, probabilmente non ci sarebbe stato bisogno di questo scenario diverso, ecco. Certamente, quindi i dubbi degli inquirenti ci sono, la sostanza, questa apertura dell'indagine per omicidio volontario è il segno che gli inquirenti hanno qualche dubbio su questa ricostruzione. Del resto, indiscrezioni in questi minuti alla procura stanno uscendo, nei quali si dice appunto non c'era sangue nell'appartamento, e l'uomo in realtà nelle sue dichiarazioni avrebbe detto appunto ho sparato quando era dentro l'appartamento e poi l'avrebbero portato fuori. Un'ultima cosa, la casa ci confermi ha subito tre furti o due, non abbiamo capito bene nei diciamo mesi precedenti. Il furto denunciato sarebbe è soltanto uno. Ai carabinieri, dopo la morte del ladro, l'uomo che ha sparato avrebbe detto che c'è stato un secondo furto non denunciato e anche un altro tentativo di intrusione nella casa non andato a buon fine. E questo, come dire, il buon cittadino ha il dovere di denunciare tutti i reati che avvengono nella o intorno alla propria abitazione e quindi, come dire, chiedere allo Stato la giusta protezione. È un elemento di coscienza civile, sì, fondamentale. Ed è vero anche che molti in certi casi non li denunciano nemmeno quando si tratta di piccoli fatti, perché sanno che poi alla fine è molto difficile perseguirli. Io ti ringrazio comunque, grazie a Gianni Santucci, collega del Corriere della Sera, giornalista del Corriere della Sera e cronista che si sta occupando di queste vicende. Saluto Marcello Pezzetti, storico e uno dei massimi studiosi italiani e internazionali, a dire il vero, della Shoah. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. E tra l'altro direttore scientifico della Fondazione Museo della Shoah di Roma, per parlare di queste parole e per chiederle informazioni e lumi su queste parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che dice che Hitler non voleva sterminare gli ebrei ma espellerli, e fu convinto alla soluzione finale dal mufti di Gerusalemme Haji Amin al-Husseini. Che cosa dice, professore, di queste affermazioni? Comincio a rispondere con una battuta. Chissà se avessi avuto intenzione di farlo, cosa sarebbe successo? Dal punto di vista storico, hanno una fondatezza oppure no? No. Ecco, la cosa impressionante è che, in questo caso Netanyahu ha fatto un passaggio in debito, diciamo, da politico a storico. In debito nel senso che non è suffragato da una documentazione la sua dichiarazione, ecco, ma assolutamente. La prima volta che il Mufti incontra Hitler avviene il 28 novembre del 41 a Berlino, quando le decisioni sono già state tutte prese, non solo, ma quando erano già mesi che si era incominciato ad uccidere. Quindi lo sterminio, quando si incontrano per la prima volta Hitler e il Mufti, era sostanzialmente già in atto. Ci può aiutare, professore, anche a capire che figura è questa di Haji Amin al-Husseini, che probabilmente è questo Mufti di Gerusalemme del quale quasi nessuno ha sentito parlare e che qualcuno ha chiamato, ha soprannominato in passato anche qualche storico, il Mufti Hitler? Che figura è stata? Beh, è una figura come in Medio Oriente era, diciamo, non dico abbastanza comune, però non era eccezionale. Era un grande antisemita, era totalmente contrario all'arrivo degli ebrei in terra, in quello che gli ebrei chiamavano Eretz, nella terra di Israele, ed è stato un grande alleato di Hitler, ed ha avuto anche una parte fondamentale nella ex Jugoslavia, per esempio nel reclutamento di SS musulmane bosniache. Quindi lui è responsabile di uccisione di ebrei in quella zona dell'Europa, ma questo avviene nel 43. E una delle cose, diciamo, caratteristiche di personaggi di questo tipo, in particolare la sua figura, è che se la Germania avesse vinto, diciamo, la campagna d'Africa, non fosse stata confitta, allora sì che sarebbe stato un disastro e lui avrebbe avuto un ruolo veramente fondamentale nell'uccisione degli ebrei che abitavano quelle terre. Ma ecco, questo è un mondo, come dire, delle ipotesi, no? E noi ci dobbiamo fermare ai fatti, altrimenti non facciamo storia, facciamo un'altra cosa. La ringrazio, grazie a Marcello Pezzetti, storico, uno dei massimi studiosi italiani e mondiali della Shoah, direttore scientifico della Fondazione Museo della Shoah di Roma, per questi chiarimenti. Noi adesso ci fermiamo, andiamo come sempre a sentire che cosa succede sui mercati. Nella seconda parte della trasmissione andremo a parlare delle condizioni di salute del Papa, lo faremo col vaticanista del Sole 24 Ore, Carlo Marroni, e poi Apre Smau, ci faremo raccontare dal nostro Enrico Pagliarini che cosa succede. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli, partendo dalle dichiarazioni di pochi istanti fa di Padre Lombardi, portavoce Vaticano, sulle indiscrezioni pubblicate dal quotidiano nazionale secondo le quali Papa Francesco avrebbe un tumore al cervello. Il Papa gode di buona salute, dice Lombardi. Non c'è sangue nella casa di Vaprio Dadda, dove è stato ucciso ieri un ladro. Sarebbe dunque stato ucciso sulla scala esterna. Aveva precedenti penali ed era stato espulso nel 2013. Ai domiciliari anche l'ex presidente dell'INPS, Mastrapasqua, nell'inchiesta sull'ospedale israelitico di Roma. 14 arresti complessivamente per truffa al Servizio Sanitario Nazionale. I benefici fiscali concessi a Lussemburgo, Olanda, Fiat e Starbucks sono aiuti di Stato. Le aziende dovranno restituire tra i 20 e i 30 milioni di euro. La borsa. Invesco. Per i tuoi risparmi. Investi con noi. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Foto Industria Bologna 2015. La biennale dedicata alla fotografia industriale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo al microfono, sempre Simone Spezia. Come si diceva poco fa, ha parlato e sta parlando probabilmente ancora in questi minuti padre Federico Lombardi, portavoce Vaticano, sulle condizioni di salute del Papa, perché la notizia di oggi è diffusa dal quotidiano nazionale, il gruppo che comprende per esempio Il Giorno, La Nazione e così via, scrivevano che il Papa avrebbe un tumore al cervello, curabile, e però avrebbe un tumore al cervello. Notizia seccamente smentita. E Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a te. E mi sembra smentita anche con una discreta durezza da padre Lombardi, no? Sì, molto. Ha smentito sia che il Papa sia in cura da un medico giapponese. Ci siano stati voli in elicottero in entrata anche a gennaio, perché la data che si fa riferimento è il 25 gennaio, e quindi diciamo è smentita su tutto il fronte. Quindi sulle condizioni di salute, dice il Papa, è in buone condizioni di salute, come ha detto Lombardi, sapete che ha problemi alle gambe, ma quella è evidente, all'anca in particolare, e non ci sono altre evidenze. Io personalmente poi ho parlato con alcune fonti interne al Vaticano, e anche su questioni diciamo di più private, e non risultano appunto nulla di tutto questo. La clinica San Rossore di Firenze sembrerebbe che dice che ci sono stati dei voli. Dico di più, il medico, questo dottor Fukushima giapponese, avrebbe fatto dei voli in elicottero, però nel suo blog ci sono delle foto, ma non riferite né al Papa né tantomeno al Vaticano. È stato in Vaticano, ha incontrato pare un cardinale, ma non il Papa. Tra l'altro si parla di un elicottero con le insegne vaticane, ma ti risulta che esista, Carlo? No, non solo non esistono, allora, il Vaticano non ha elicotteri, tantomeno con le insegne bianche e gialle che insomma ricordano un po' i romanzi. E il Papa quando si sposta con elicotteri e l'aeronautica militare italiana. Ti ringrazio. Non ci sono elicotteri, non ci sono voli, il Papa sta bene, ha 78 anni, quasi 79, quindi diciamo ha qualche acciacco, ma non risulta che abbia né tumori né altro. Ti ringrazio, grazie a Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, dice tra l'altro padre Lombardi, pubblicazione avvenuta, un grave atto di irresponsabilità, assolutamente ingiustificabile ed inqualificabile. Restiamo all'estero per così dire, ma andiamo un po' più lontano, andiamo in Siria, o meglio a Mosca, perché oggi Bashar al-Assad era là. Il viaggio non era stato annunciato, ma ieri Assad è volato in Russia per parlare della situazione con Putin. Il presidente siriano non usciva dal suo paese dal 2011. I due hanno discusso delle operazioni militari e anche della transizione. Il presidente russo avrebbe suggerito di procedere di pari passo. Sul come non è dato sapere, almeno non più di quanto riporta il sito del Cremlino. È necessario un processo politico con la partecipazione di tutte le forze, i gruppi etnici e quelli religiosi, e per questo la Russia è pronta a dare il proprio contributo durante le azioni belliche e il processo di pacificazione. Queste sarebbero state le parole di Putin. Il leader siriano, dal canto suo, spera di sconfiggere il terrorismo e di ricostruire il paese, sempre con l'aiuto dei russi. Se non fosse stato per Mosca, l'ISIS e gli altri gruppi terroristici che operano in Siria avrebbero occupato territori molto più vasti, ha detto Assad, esprimendo enorme gratitudine alla federazione e al popolo russo. Sul campo Mosca ha registrato le prime perdite, 3 uomini uccisi da un colpo di mortaio. Il comando russo però nega. Potrebbe trattarsi di volontari che affiancano i lealisti, di fatto un modo per i russi di partecipare alle operazioni di terra. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Abbiamo parlato poco fa della veridicità storica delle affermazioni rilasciate oggi dal premier Benjamin Netanyahu, e però ci sono anche tante altre reazioni a quello che ha detto Netanyahu, e ci sono anche altre notizie che arrivano da quell'area. Le continue uccisioni e l'incitamento ai più alti livelli del governo israeliano contro il presidente Abu Mazen porteranno alla completa esplosione della situazione. È l'ultimo comunicato dell'ANP ed è anche l'ennesimo tassello di una situazione sempre più tesa. Oggi una donna palestinese ha tentato di accoltellare un militare israeliano ed è stata ferita. Dall'inizio di ottobre almeno 8 israeliani sono stati uccisi, decine quelli feriti, mentre sono 40 palestinesi morti, tra cui diversi aggressori. Ban Ki-moon, che ieri ha sorpreso è arrivato in Israele, oggi incontrerà Abu Mazen, poi riferirà da Ramallah al Consiglio di Sicurezza sul suo viaggio. Ieri, nella conferenza, al termine del colloquio con Netanyahu, il segretario dell'ONU ha sottolineato che se l'uso della forza non è propriamente calibrato può alimentare frustrazioni e ansie da cui scaturiscono violenze. Il riferimento era alla scelta di Israele di creare barriere e unità militari, misure definite da Ban Ki-moon controproducenti. Oggi Netanyahu è a Berlino per incontrare la Merkel e domani vedrà il segretario di Stato americano Kerry. Intanto monta la polemica sulle frasi del premier pronunciate al congresso sionista, secondo cui Hitler all'epoca non voleva sterminare gli ebrei ma solo espellerli. Fu il mufti palestinese a dire bruciali. Una pericolosa distorsione, ha subito commentato il leader dell'opposizione Herzog, perché minimizza la Shoah e la responsabilità di Hitler. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. A chiudere andiamo a Smau, dove si trovano i nostri studi, si apre oggi, ci colleghiamo con il nostro Enrico Pagliarini. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Smau, ricordiamo, è il classico appuntamento annuale dedicato alla tecnologia. Si è aperto questa mattina con un ritrovato ottimismo, direi, visto che il settore information technology sta lentamente invertendo la rotta. Secondo i dati Assinform, nel primo semestre dell'anno c'è stata una ripresa dell'1,5%, un dato importante rispetto ad una lunghissima serie negativa. Tra poco verrà diffuso un altro dato sul numero e anche sull'andamento delle start-up innovative in Italia. Ne parleremo sicuramente a GR24 nelle prossime edizioni. Vi ricordo che oggi alle 17 ci sarà Focus Economia, ci sono vari programmi in diretta da Smau, siamo al padiglione 1, e domani realizzeremo anche una puntata speciale di 2024. Quindi vi aspettiamo qui oppure alla radio con tutti i nostri speciali. Grazie, grazie Enrico, e buon lavoro dallo Smau. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade. Poi...